all'ascolto. Ciao Natali, ci sono io, ma sto lavorando, sto facendo cosa. E allora continua a lavorare. Però c'è sempre qualcuno. Scappa. Chi è? Avanti. C'è qualcuno su 10? C60, Gianfra. Sì, sono qua, come dice Lana, stiamo lavorando per voi. Ehi, no, c'avevo il microfono che non stava uscendo. Lasciamo pulito, ma c'ho tutto a zero. E beh, che punto sei? Ha un punto molto inferiore, mi sta facendo... Insomma, ci siamo capiti. C'è anche Natalino comunque, stava chiamando fino a poco fa. E in salita, questi apparati, mamma mia, sono vecchissimi proprio. Vabbè, prendiamo un piatto da quella. Ehi, c'è anche Natalino. E vabbè, no, non mi interessa... Interessa quell'iscrizione, ma l'hai fatta per l'abilitazione alla digitale. Ma stavo anche dimenticando, tutto fatto, mi hanno mandato già il nominativo, cioè o meglio, dopo la procedura c'è il nominativo provvisorio, però quello la conferma, perché ancora ovviamente non è funzionata, la riceverai via mail, quindi controllala, anche se non penso, perché non penso che quello sia tutto il giorno attaccato ad aspettare iscrizioni, quindi magari o domani o lunedì. Comunque per sicurezza, guarda, io ma sono abbastanza veloce. Vabbè. Quindi nominativo lì devo usare sempre il mio, però. O no, o c'ho un altro nominativo per poter entrare. No, allora, specifichiamo, è un numero che si chiama numero ID, che corrisponde al nominativo, ma dal punto di vista pratico, legale e così via, non c'entra niente, è solo un numero che serve per entrare lì e basta, non alle poste, al ministero, non rappresenta assolutamente nulla, è solo per entrare su quella rete, tutto lì. Stavo provando l'imbara, però no, sembra che non ci vada, c'ho alcuni parametri da ritoccare. Stessa cosa per Oristano, adesso sto facendo delle prove prima in Simplex per vedere come sta comportando. Va bene, ok. Se il computer l'accendo tutti i giorni, guardo il numero per fare appunto attivazione lì. Se non è attivo uso sempre il mio. Va bene, dai, continua. Che mi si sta voltando e poi entro. Ok. C'è anche Natalino, ma non l'ho sentito io. Dov'è? Dove sei? Batti un colpo. Non c'è, evidentemente ha salutato a te, ma a me non mi ha sentito perché io non stavo uscendo dal radio. Va bene, dai, sono qua Gianfra comunque, ok. Ecco, non so se stai parlando, mi hanno chiamato c'era un'altra comunicazione. Ehi Gianfra, già sono qua anch'io, dai, ci aggiorniamo dopo, non problem. Sì, va bene. Mi dormi anche a lui. Comunque controllati la posta. Ciao Ivio, mi ha ascoltato. Come va? Bene, buonasera. Ciao Claudio, beato chi ti sente. Siete che mi chiamate, io non ti volevo disturbare, ma mi chiamerà tu. Sì, già ti chiamo, guarda. Sono incasinato a 360 gradi. Poi ti spiego. Mi sto rincoglionendo, quindi vuol dire che si sta avvicinando si sta avvicinando il periodo di come si dice, della pensione, sempre più vicino. Claudio ha già rincoglionito, quindi il problema non è. Era grande. Bisogna stare attenti chi entra qua, perché questo è un canale di rincoglioniti, quindi soprattutto quelli che sono già in pensione. Ciao Elio, carissimo, buonasera, ben ascoltato. Buonasera, conosciamo la questo canale, va bene per me, dai. Io ci sono. Io sono tutta la stessa, per esempio, ma non parlo, perché mettendo un minacchino, facendo, aprendo, tutto, prego, bene, bene, io ci sono. Io ci sono, no, sono un po' interviato e non so, cioè il computer. Ma tu le cose te le sai fare, io invece ho messo a fare, te l'ho voluto già a Franco, si stava memorizzando digitale, facendo altre cose che lui sa. Va bene, io sono qua comunque, quando volete chiamate, anch'io sto, sì, adesso accendo il computer già fra, così vediamo se c'è, se è tutto a posto. Ok, benissimo allora, così almeno sappiamo se magari hanno già risposto. No Gianfra, no, non ha arrivato niente, ma c'è qualche, ma cos'è, qualcosa al ministero? Ha già detto di no, il ministero non c'entra un tubo, è un'associazione, è un gruppo internazionale che gestisce tutti i ripetitori. No, è solo una sigla, un numero mio, un numero identificativo, che è collegato al nome nativo che abbiamo mandato. E te l'ho detto, sabato e domenica c'è uno, c'è un radioamatore che deve fare, e quindi sarà in giro, sarà anche una pizza. Poveretto, anche lui che gestisce tutta questa baranana, deve avere il tempo di vederla, di arrivare la notifica, di approvarla e di ritornarla indietro. Però il numero ce l'ha già, comunque è provvisorio, quindi non funziona, però c'è già, il sistema l'ha già segnato. Io già tutta la breccia. Va bene, no, ce l'ho, sto guardando le mail, no, non ce n'è. Vabbè. Controllo domani mattina, o lunedì, che ti avviso. Sì, ok. Comunque me ne accorgo anch'io, perché facendo il portale non tanto lo provo, ma molto più accede, così posso provare, posso scendere da me che sta venita. Ci impiega 24 ore di norma, ma oggi è sabato. Vabbè, dai, ci sono con l'ascolto. Va bene, a dopo, sono qua, sono PC. Calma, io il suo numero. Ma sicuramente non avremo il numero uguale, sarà diverso o no? Se l'ho fatto tutti una cosa del genere, forse non si sono stati pirati. No, quello c'è, che se vuoi un altro lo stesso. Giusto da fare. Non lo so se avete chiamato, ma ero pure qui da notte, sì. Sì, sto leggendo Claudio, che è giusto che ci siano queste indicazioni, perché così non ci sono più pirati. Ma mi sta dicendo un altro nome con lo stesso. Sì, rubando il nome nativo, sì, però adesso hanno messo un nuovo sistema, per cui se vuoi essere avvisato che qualcuno sta entrando col tuo nome nativo, ricevi immediatamente una notifica e quindi lo possono sgammare. È una cosa che sì, si può fare, però c'è qualche rischietto in più. Ah, vabbè, quello sì. Progresso identifica, diciamo, si mette, guarda, mi ha detto lì tutto. Io nel mio campo, quando uno accende, le dico adesso acceso, e quello sì, sì, è vero, te l'ho acceso. E io l'ho perso, c'è anche Natalino comunque. non l'avevo sentito. Ciao, buonasera. Ho chiamato anch'io, comunque non ha risposto. Vabbè, se volete siamo ancora. Io sono al PC comunque, se mi chiamate rispondo, se no sono in ascolto. Ok, se vuoi ti mando già un mail, però col tuo numero, però l'ho già scritto anche nella radio. Sta zitto, non ne abbiamo fretta, fai quello che devi fare. Io aspetto intanto l'email definitivo poi per poter usare la radio. Ok, ma sto dicendo, ma devi stare facendo. No, non siamo sentiti neanche per telefono. Ho andato a Olbia, non so, non ho sentito. No, è mancante. È mancante. Ma fare le commissioni. Lei magari è passata Olbia e io non so se non sarebbe entrato, o avrebbe chiamato stamattina andare a prendere il caffè. Gappa gappa, vabbè, sono qua comunque, eh. Vai a lavorare che ti stai annoiando. Mamma mia, come sto? E come stai? Cosa? Come stai? Ho detto, mamma mia, come sto? E appunto, come stai, infatti? Come sto? Ecco, Francesco Salvi, ti sei riuscito? No, aspetta, capito, facciamo anche gli ultimi, l'email. Facendo una carrellata su subito, su due, così, per uno sguardo. Meglio che spenga, se no. Ma è stato buco di qui a zio. Infatti è stata la televisione, non è stato ufficiale a mezzi, no? C'è niente. Mondezza, 5 stelle. Tutto, 5 stelle, Santa Materna di italiani, vita e miracoli. Voi, Gian Tantone mio. Stiamo promettendo grandi cose. Cosa sta facendo promesse da suicidio Berlusconi e l'altro? Non parliamo di quelli degli altri che sono, per carità. Vabbè, meglio niente. Io stavo cercando di metterti il nominativo di Stefano, però non me lo ricordo. Perché avete il nominativo di Stefano? Io non ce l'ho il mio. Tanto serio. È come un telefono, no? Che c'hai i cosi, come si chiamano? La rubrica. Sono prima la portante, anche senza parlare, sai chi è? Vai sicurazetta.com, io qua non te lo posso dire. Non sei, non ti conosce. La K è prima della whisky, boh, non me lo ricordo. Chissà perché non ne dubitavo, guarda, che anche tutto si è scordato. E così, siamo vecchi, non c'è nulla da fare, tutti al gettito, io su, mettiamoci in fila. Dai, perché erano nati di... Non lo ricordo più, oramai. Aspetta, mi è arrivato un messaggio, forse me l'ha mandato qualcuno che sta ascoltando. No. Comunque chiama lo ricordo. È di KW. Vabbè, ma quello perché andavo quello tuo, guarda quanto tempo ci vuole me. Anche perché non riesco a agganciare il ponte, magari guasto poi come sempre, no? E quando le vuole cosa? Non fa come ho fatto io, no? Io non avevo attaccato il 110H. La nostra radio non funziona. C'erano metà dei punti, lo dicevo prima, aveva fatto un temporale, c'era cioè metà dei punti si staccati. Assolutamente una giubilata. Io di radio. Mamma mia, che. Sì, no, è quello nominativo, capito? Di KW. Ah, ah, ci ho capito. Whisky finale, capito? Ho capito, ho capito. Io sai che mi fai 2 anni, quindi fai bravo, perché tu ancora vai bene, ma lo vedrai tu, ancora il prossimo anno, e poi sei più rincoglionito di me. Vabbè, chissà, forse può darsi. No, la categoria è quella, eh. È 58, 60, cioè 61, 62, quindi è così, la categoria è quella, poi io già si sciuglie, non ci crederai, ma mi sto ricordando davvero l'obiettivo quando lo lavoro, che adesso sono a casa. Tra la goccia e lampeggia, c'ho la lampada, i faretti accesi, ogni tanto la lampeggia uno, si sta combinando la lampadina. Comunque non me lo dà andata a mese, cosa io lo sto sbagliando, ma loro credo che non siano un F0 neanche. Sì. Da quale parte? Da quale parte? Ma te quante c'è? No, sì, la grande. La grande come noi, la grande. Già da 2 anni fa. No, non c'è sul coso. Quello che ha detto non esiste. BKW? Sì. No. Lui. BSW, no, fa Napoli, BK è un altro. Meno male, non volevo essere io. E ma infatti non te lo lascio, non esiste, quindi sì DS blu, adesso tutti uguali, che un attimo si uccideva blu, dove da chi era un altro, Antonio. Vediamo un po' Sì. Ok, adesso ti metto qualcosa nella rubrica, così ce l'hai. Dattotela adesso, no? Hai visto già quello, non sono così rincoglionito. Beh, almeno al terzo o quarto tentativo, cioè, ci sei riuscito, dai. Sì, mi ricordo già perché hai detto di K invece di S. Di K è un altro. E vabbè, fra poco non mi ha mai intromesso io, Gianfranco. Ui. Infatti. Io per ricordarmi il mio ci hanno dovuto cibare. Comunque, l'importante è arrivarci, c'era quella. E infatti già siamo arrivati. No, io non posso sbagliare perché ce l'ho, non mi hanno attivato davanti. Scritto in una cartina, poi mi giro le spalle e addirittura è attaccato anche al muro. Seduto qua, ma gli intesi un cane. Infatti si sentono solo gatti. Io beh, io devo sentire, oramai, tutto sentito, sono riuscito a portare il cane, c'è un freddo fuori, una iatta di chi sa doppio che il sassarese impiri la iatta. Ah, meno male, perché anch'io sono fitto. temevo di essere io freddoloso, ma in effetti c'è freddo, cavolo, e quindi va bene così, e giù ce la vanno anche in collo a fare. Lavora carissimo, lavora, sono qua. Vabbè, anche questo è fatto. E tu hai già finito, eh? No, è così semplice che credi che sia. È complicata la... Cioè, non è complicata, è rognosa, capito? Se ci vedi poco, se ti stanchi la vista, è veramente un casino. Ma sto dicendo che non... Guarda, mi stavo facendo due fesserie al mio 140, perché l'ho comprato e aveva la potenza molto alta, quindi mi sono messo lì, mi hanno messo un po' la potenza, ho fatto due letterature, niente, due cosettine proprio. Gli occhiali che uso normalmente, quelli per uscire, manco i trimmer per telefono, quindi uso quelli più forti, che uso solo da vicino, che usavo al lavoro per prendere le letture dei contattori. Non li posso tenere più di 10 minuti perché, guarda, sai come si fanno gli occhi, rossi, c'è niente da fare, fatto da mia moglie, prendo l'appuntamento dall'oculista per il prossimo mese, e vale, me li faccio una vista, perché sicuramente vogliono cambiare di nuovo gli occhiali, e questa è la terza volta. Ma infatti, ci metto un nome attivo qua del tuo occhio. Anche questo ce l'ho messo. Chissà cosa mi sto dimenticando. Memorizza con gli shift, con tutto, cosa c'ha, toni, tutto. C'ha i toni, i troni, tutto canto. Vabbè. Così anche quello è completo. Lo mettiamo nella collezione delle radio spente. Vieni con te lo Stefano, Emilio, sono qualcun altro, facciamo qualche passaggio insieme agli altri, sono due anni che non faccio, che non le uso in voi, per carità, e c'ho belle radio, che non ho 110H senza rivente, sono 275H, 265H, un'altra che ne avevo preso, che è lì, per carità, che disastro. Io ne ho tanta lo stesso, le mie sono state attaccate poi. Però no, non c'ho tempo. Ho preso questi cosi. Quindi qua con lo scaricatore non ho capito a cosa mi servono. Per mettere il coso a massa, vabbè. A qualcosa li useremo. Aiaia. Comunque compratelo quell'affare da... Io ho tenuto uno, però glielo porti a vedere, magari te lo prendi pure. E la cosa, come la datatore. Sì, no, voglio fare lunedì, no, lascialo stare quello lunedì. Quindi quando mi dai di nuovo la radio, vado direttamente a Fusaro con la radio e me lo faccio dare, perché ce li aveva, solo non ho avuto tempo di andare a prenderlo. Che ce li ha tutti, non ti preoccupare, quella è l'ultima cosa. Ho detto, ma posso usarla la bibanda che c'è qua nella vattata della finestra? Sì. Certo che sì, facciamo la Fusaro. Per non attaccare, perché io sono organizzato, nel 275H c'è la direttiva per le V, nel 475H c'è la direttiva per le U, e quelle le uso solo in modo laterale, o per dire le usavo, adesso non le sto usando più. Il 910H c'è la verticale, capito? Quindi siccome io ho quell'antenna che ti ho detto nella finestra, che riceve abbastanza bene, mi arrivano quasi tutti i punti, perciò è una bibanda. E ci attacco quella lì, capito? Se poi in estremi se dobbiamo fare qualche prova più lontana, allora metto la quella grande, l'antenna. Vabbè, sì. Non mi gusta. Negativo. Va, mazza, che ne scende. Che strano. Ma non è che io mi sto arrabattando il tutto. Aspetta che controllo sul ponte acceso il vento, perché veramente mi sa ribigliata, insomma, ci siamo fatti il tempo. Sì, ti stai distrando, non sei concentrato. Fai le cose fatte bene, già sono qua. Ehi, sei poco sparato. Non ho capito niente, Gianni, ciao, buonasera, abbassa leggermente il Mickey Gay perché sei tutto trappato. No, hai abbassato la potenza, non il Mickey Gay. Capito? Mickey Gay è quello nero. Abbassa il pomellino nero, mettilo a 1. Alza appena appena. No, non se ne andrebbe proprio nulla. Sì, che si sente adesso. Benissimo, alla grande. Quello deve essere a 0. No, forse no. Ti fa casino, capito? No, già va bene, stiamo andando benissimo. No, va bene. E così io non l'ho toccata già quella, lo sai, non è la roba mia, ma l'ho nata così e così te l'ho data. Anzi, gli ho aggiunto dove ci sono, dove c'è il coso della commutazione, gli avevo messo un pomellino dei miei che ce l'avevo perché mancava. No, tienitela quella già, tienitela. Te l'ho detto l'altro giorno e te l'ho data, tienitela. Perché qualità prezzo, quella è una bella radio. Funziona alla grande, veramente molto forte, molto funziona, quindi tienitela, capito? Va bene, c'è anche Gianfranco, vediamo un po', Gianfranco, lo senti a Gianni? Sì, adesso lo sento, ma prima era assolutamente incomprensibile. E io come San Claudio sto lavorchiando, quindi viene sono completamente tutto a capo, sto programmando una cosa, riprendi Claudio. Ehi, no, sta programmando una radio Gianfranco, lasciamolo fare, se no è un casino, bisogna stare attenti, capito già, ma quello non ne ha capito niente, quando gli hai data tu? Pensava fosse un baracchino, capito? E alla fine poi si è trovato con questa radio che non ne comprendia un accidente. Si è messo a toccare, chissà cosa ha toccato, chiaramente non stava più andando. No, ma va bene, ottimo. Ma quello veicolare? Io non l'ho mai avuto quello, non ho avuto tanti baracchini, ma quello lo conosco molto bene, ma non l'ho mai avuto. Anche perché baracchini a me, te l'ho detto, poco mi piacciono più i base, anche se sono vintage, però base mi piacciono di più, capito? Infatti non ne ho altri, qua c'è solo il DAC perfettamente funzionante, ieri stavo usando quello, oggi sto usando il 140 che è quello che uso meno di tutti, capito? Ma e com'è? Tipo il Tokai, così, che dimensioni ha? Tipo una LAN 48, così è? Sì, l'ho visto già, ma così proprio di sfuggita, tipo quello è. Ehi, fai, facciamo di 9. Beh, signori, io vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. Ciao, capi due, ciao Gianfranco, ciao Claudio. Ciao, io più. E io tra un pochino poi ci andiamo a cenare anche noi. Ciao, saluto a Rita. Buona domenica per domani, bye. Un abbraccio, ciao. Elio, ti chiamo appena sto parlando del corpo, I miei orari sono un po' strani. Ti chiamo intorno alle 5 al mattino, se ti va bene. Sì, ragazzi, ciao. Alle 5 al mattino, no, quando mi pare. Ciao, già chiama quando vuoi, comunque lascio proprio. Segnatelo, scrivitelo, mettiti un appunto. Ciao. Vabbè, dai, ti chiamo domani mattina. Dopo alle 10, dai. Va bene, sono praticamente a casa. Ok, ciao, buona notte, buona serata. Grazie, ciao, ripetimi, ciao, figo, un saluto. Benissimo, alla grande, segnale più basso naturalmente rispetto al K, però radio buona, ottima. Ehi, già, dai, vai a cenare, vai. Se ci sentiamo alle prossime, stammi bene. KK. Ciao, K2, ci sentiamo, buona cena. Ciao, soprattutto se è buon pranzo, ma Marco ci non senti. Ciao, già, ciao. No, non l'ho sentito, è strano perché tu di solito il sabato già entra, ma non che non sia, sia andato da qualche parte, non lo so, però sta guardando la TV. Io più di tanto a guardarla non ci riesco, anzi ultimamente da quando ci ho messo anche cose di Netflix, no? Non la guardo proprio, guardo solo cose che mi interessano e basta. No, già fatti, guarda, ti dico, ce l'avevo qua in sala radio, la TV anche abbastanza grande, l'ho tolta. L'ho tolta perché stavo sempre qua dentro guardando la TV e la radio, guardando la TV e la radio, alla fine no, l'ho tolta. Faccio solo radio qua e basta, quando, capite? Se no è un casino, perché non facevo male anche gli occhi perché era talmente vicino, capito, fronte al radio proprio a quelle apparecchie attaccate al muro che mi dava anche fastidio, la mia volta ho rimesso il piantone, l'ho dato a mia figlia in camera letto, ne aveva una più piccola, e l'altra l'ho conservata perché non sempre qua dentro, sempre rinchiuso, la televisione non la guardo mai. No, ancora non te l'hanno fatta. Vabbè, già stavo. No, alla fine mi stava stancando gli occhi, avanti ho tolta, capite? Avanti ho tolta e l'ho messo a posto. La rottura, guarda, se c'è qualcosa che veramente mi sta rompendo, sono proprio gli occhi. Perché c'era una vista proprio micidiale, gli occhi scoppiti. Lo so, è così proprio. La comunicazione è valore. Dai, che palle. Ah, poi figurati che non riceveva, no? C'era, poi non mi sono ricordato che questa radio c'ha un piccolo dettaglio che non si posso regolare neanche via su. Praticamente devi girare un bella manopola perché c'ha un picco di volume basso troppo largo. E quella funzione che mi avevi fatto fare, quella rimane sempre attiva una volta che è attivata, no? Praticamente, ti ricordi che non ricevevo, c'era quella funzione che dovevi tenere premuto e aprire e mettere in on, quella lì, quella rimane sempre attivata una volta che è attivata. Sì, forse adesso le ho ributtato dentro un altro aggiornamento, mi sembra che stia andando, però siccome io di questi attrezzi non mi fido neanche per scherzo, quindi aspettiamo un attimino prima di cantare vittoria. E vabbè, tanto la richiesta è stata già fatta del codice, non mi serve, ce l'ho, adesso noi vediamo se mandano le mail di quello definitivo e così tu memorizza tutto, non mi attivo, l'ha già messo, quindi già va bene, piano piano poi già riusciamo a cavarne piedi perché lì c'era da imparare. Va bene. Ah, tu sei uscito fuori e sembrava che eri tu che avevi freddo. Ma non puoi fare, dici? C'è una brina, una ghiacciaia fuori. Sono uscito a portare il cane, mi stavo cancarando. Sì, poi stamane hai visto, non si vedeva una massa. Io sono uscito abbastanza tardi rispetto ai miei parametri, alle 7:15, ma non si vedeva un tubo. Ma hai visto, non ci siamo visti noi che erano 9:30, c'era sì quel già il sole, però ancora c'era molta umidità, infatti mia figlia mi sta uscendo che è a riposo domani. con le colleghe e con gli amici, ho detto copriti bene perché guarda che c'è freddo, c'è molto freddo e molta umidità. Infatti frega, bisogna fare un vertice a quelle cose. Mannaggia. Quando ho queste cose me ne terrorizzo. Ok. Ah, è così. Purtroppo è... Poi 3 gradi, comunque basta, la mattina 3 gradi. Stamattina quando ci siamo visti non c'erano 9, cosa pensi che c'era? Non volevi far fare a me questa cosa, dici tu la gira tu che sei esperto, figurati se mi mettevo a farla io. Sì, ma c'è un motivo, allora, queste così sono proprio, come si dice, non è curata la programmazione. Si mette a fare una radio professionale, come quella che normalmente faccio, problemi non ce ne sono, perché quella funzione è quella funzione, senza molti giri, sono precisi, devi mettere, che ne so, una frequenza. Metti quella frequenza è, anche se c'ha decimali, sta decimali e tutto quello che non può desiderare. Su queste no. Sbagli appena qualcosa e subito non ti funziona più. Insomma, è tutto un altro mondo, capito? Dalle stelle alle stalle. Digitale così, senza fare, poi la programmazione non la sai fare, non la sai fare. Va bene, dai Gianfranco, sono meno 25, le 9, io inizio a andare, sono arrivato anche un messaggio, l'ho sentito, c'ho il telefono nel giubbotto, adesso guardo a vedere chi è. Ci aggiorniamo domani, se sei in giro chiama, magari andiamo a prenderci un caffè, ok? Adesso vediamo, perché questa cosa me la devo finire perché devo fare anche delle altre cosette di security essenzialmente, e quindi vediamo un po' come si entra la cosa. Va bene, dai, vai a cena, buona cena, ci sentiamo domani, anche io qualche cosa mi posso dedicare a combinare qualcosa con questa attrezzo. Ehi, già fatto.